in primo piano. Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Come chi ha seguito la rassegna stampa di ieri sa, da oggi inizia il palinsesto estivo di Radio 24, quindi al posto di 24 Mattino c'è questa oretta di rassegna stampa e poi ma cos'è quest'estate? E per questa settimana ci sarà Laura Bettini dopo il GR delle 8. E quindi iniziamo dal Sole 24 Ore, come avete sentito nella controcopertina del GR. L'apertura è dedicata a questi 20 anni dello statuto del, appunto del contribuente, che è nato il 1 di agosto 2000. Doveva essere un nuovo inizio per il rapporto tra lo Stato e i contribuenti fisici e aziende. E così, come abbiamo sentito, non è stato. E a questo proposito vi segnalo a pagina 3 il commento di Salvatore Padula: è cambiato il cambio culturale. Salvatore Padula è stato vice direttore del Sole 24 Ore, ora editorialista, anche responsabile del dorso, appunto, della sezione Norme e Tributi. È proprio una, se ne parla da tantissimo tempo, di questo rapporto tra fisco e cittadini, ripeto, sia le imprese, sia le persone fisiche che le imprese. Si dice che manca la fiducia, credo che in nessun paese sia piacevole pagare le tasse, comunque, però è una questione di innanzitutto avere delle regole chiare per pagarle, non sentirsi vessati e poi naturalmente vedere utilizzati al meglio possibile i propri soldi. E quindi vi segnalo le prime righe di questa analisi che trovate a pagina 3: quel cambio culturale che è mancato dopo la carta. Il diritto alla certezza e alla chiarezza delle norme, il diritto all'informazione, alla conoscenza e alla motivazione degli atti, la tutela della buona fede e la rimessione dei termini, attuale in questi giorni se il mancato adempimento dipende da cause di forza maggiore. L'interpello e le compensazioni, poi le garanzie su ispezioni, verifiche e accessi. Il reticolo di tutele disegnate dallo Statuto dei diritti del contribuente rappresenta una conquista di grande importanza e a 20 anni dalla sua entrata in vigore la Carta continua a rappresentare un manifesto di straordinaria attualità. Il problema naturalmente è l'attuazione di questo Statuto. E vi leggo le ultime righe. La violazione di alcune norme dello Statuto è diventata nel tempo un fatto acquisito, ordinario, e ci si stupisce quando la Carta viene rispettata, non il contrario. In alcuni provvedimenti dell'amministrazione si enfatizza persino che determinate scelte favorevoli ai contribuenti siano fatte nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, ovvero ci si vanta di aver osservato una legge dello Stato, il che rilancia l'idea che molta strada va ancora fatta e che lo Statuto e i suoi principi servano oggi più di 20 anni fa. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, che come sapete è un'edizione di approfondimento che viene chiusa al venerdì sera, c'è anche un approfondimento sul super bonus per l'efficienza energetica, chi accede e chi no al 110%. E poi vi segnalo di Maurizio Caprino, una voce molto nota agli ascoltatori di Radio 24, scatta il grande esodo, la mappa delle code. E a proposito di questo ci fermiamo per una prima pausa con gli aggiornamenti sulla viabilità. In primo piano. Rieccoci e grazie davvero, sono Giulia Crivelli, grazie davvero agli ascoltatori che hanno mandato già questi primi messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Sarò diventata con l'età o forse per via del lockdown, non lo so, un po' emotiva, però alcuni sono veramente commoventi. Poi c'è chi non è contento del mio ritorno e pazienza, insomma ci sono tante altre rassegne stampa e comunque magari resterà sintonizzato e lo smentirò nel suo approccio negativo alla mia conduzione, ma insomma non si può piacere a tutti. Torniamo per un attimo al Sole 24 Ore con L'Esperto Risponde, in edicola come ogni lunedì col Sole 24 Ore. E l'approfondimento, anche se come sapete nell'Esperto Risponde ci sono le risposte a quesiti di ogni natura, ma in particolare agevolazione alle imprese, sanificazione e adeguamento, perché questo è un tema che riguarda il post lockdown, la riapertura per esempio delle imprese. Vi segnalo la prima pagina di Financial Times, la fotonotizia si intitola Holidays Hit e riguarda a proposito appunto di fase 2, fase 3, a seconda di come l'hanno chiamata i vari paesi, la riapertura dei confini, il turismo, che naturalmente è partito un po' in ritardo quest'anno, e come sapete ci sono problemi in particolare in Spagna. La decisione del Regno Unito di reintrodurre una quarantena per chi torna dalla Spagna, con tutti i problemi sia per chi magari aveva già prenotato e a questo punto non sa se partire o no, ma per chi è già in Spagna. Nel Regno Unito questa decisione, non a caso il Financial Times mette la notizia in prima pagina, ha suscitato molte polemiche e molte reazioni negative, e di turismo si occuperà, vi segnalo, anche Laura Bettini nel primo appuntamento, appunto, con Ma cos'è quest'estate, subito dopo il GR delle 8. Il titolo principale però riguarda le perdite in vista per le banche. Financial Times stima una previsione di 23 miliardi di perdite per il prossimo trimestre, e aggiunge anche further pain expected, cioè questo non è la fine, ci saranno altre perdite. Naturalmente le banche sono in sofferenza, primo in generale perché questa pandemia non ha risparmiato nessuno, tranne forse chi ha speculato in borsa, ma le banche sono in sofferenza anche perché ci sono persone che non riescono a pagare le rate dei mutui, le rate dei prestiti in generale, le aziende che hanno lo stesso tipo di problemi, quindi per le banche, per i bilanci delle banche, questo è naturalmente si riflette sugli utili che si trasformano in perdite. Poi però, a proposito di finanza, l'altro titolo interessante della prima pagina di Financial Times riguarda le quotazioni a Wall Street, i debutti a Wall Street di aziende cinesi, e il Financial Times, osservando chi appunto ha fatto queste IPOs, dice in fondo: i tanti motivi di attrito politico, soprattutto tra Stati Uniti e Pechino, non hanno per ora influito su questo. Poi in realtà, per esempio, c'è la notizia della settimana scorsa che la società che si occupa di pagamenti, che fa parte di Alibaba, alla fine ha scelto di non quotarsi a Wall Street, ma questa è proprio notizia recente. Financial Times invece va un pochino più indietro nel tempo. Un altro tema interessante di questa seconda fase, dopo appunto il lockdown che sta iniziando, naturalmente seconde ondate permettendo, e soprattutto considerando che in alcuni paesi la curva dei contagi non si è fermata, anzi sappiamo che nelle Americhe, Nord America, ma soprattutto Sud America, continua a preoccupare l'ondata di contagi, in particolare in Brasile, e naturalmente il numero di persone che muoiono ancora di coronavirus ogni giorno. Però il grande tema della svolta verde, che sapete dovrà essere anche al centro del piano che dovremo presentare come Italia per avere accesso ai fondi del Recovery Fund. E allora Big Read di Financial Times, che è la pagina di approfondimento di oggi, si intitola Joining Forces with Eco Warriors, cioè unire le forze con i guerrieri del clima. E il tema è quello della paura che avevano avuto molti che la crisi legata alla pandemia, quindi prima crisi sanitaria e poi economica e ora naturalmente anche sociale, fermasse queste svolte verdi e questo interesse degli investitori per guardare a questo tema come una delle ragioni per le quali investire. Invece, secondo Financial Times, comunque questo trend continuerà. Perché? Perché poi c'è un ragionamento di fondo, non è semplice amore per il pianeta, ma perché i cambiamenti globali, il climate change, quindi i cambiamenti del clima, alla fine comunque si ripercuotono sulla salute dell'economia. E quindi c'è un interesse appunto per chi investe nelle aziende e quindi ha un orizzonte magari non proprio di breve ma di medio-lungo termine. Il clima diventa un fattore importante, quindi le aziende che si attrezzano per avere un minore impatto sull'ambiente sono destinate a essere quelle più apprezzate. Il Corriere della Sera. Vi segnalo che praticamente oggi è sparita dalle prime pagine l'inchiesta sulla caserma dei carabinieri di Piacenza, dopo averle conquistate appena due giorni fa. Ci sono degli aggiornamenti, perché ieri ci sono stati altri interrogatori, però dalle prime pagine, da tema appunto di apertura, tranne che per il Sole 24 Ore, che ha sempre tenuto un atteggiamento, lo dico non per così per difesa del giornale in cui lavoro, ma perché mi sembra l'atteggiamento più razionale, perché vedere a distanza di 2 giorni che la notizia è sparita dalle prime pagine dopo esserne stata l'apertura, se non altro sembra un po' insomma salta all'occhio. Il Corriere della Sera titola sulla questione, sui 3 appuntamenti sostanzialmente importanti di questa settimana, cioè il voto in Parlamento per il MES, il voto sulla vicenda Open Arms dopo che la Commissione per l'immunità parlamentari del Senato aveva espresso parere negativo a processare il senatore Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, che risale a circa un anno fa, quando era ministro degli interni. Ora poi però adesso dovrà votare il Senato, poi ci sono anche tutto il dibattito sul recovery fund e su un eventuale dibattito in Parlamento, come auspicava proprio dal Corriere della Sera ieri il presidente del Senato Casellati. Le foto di prima pagina sono 2 e sono legate agli eventi sportivi di ieri. La vittoria, l'avete sentito naturalmente nel GR, della Juventus, che ha conquistato il 9° scudetto di fila, e poi il ritorno sul podio di Valentino Rossi a 41 anni. Devo dire, c'è un accenno in prima pagina, mi correggo rispetto a quello che ho detto prima, ma quasi non si vede, ed è un approfondimento di Luigi Ferrarella, che 3 giorni fa aveva fatto anche un articolo su questo, sulla caserma di Vicenza, ma di Piacenza, ma poi soprattutto un aggiornamento sulla questione dell'inchiesta che vede coinvolto il governatore della Lombardia Attilio Fontana. A questo proposito vi segnalo, per chi volesse sentire le parole del governatore Fontana e farsi un'idea, oltre che dalle carte giudiziarie di cui danno conto i giornali, anche dalle sue parole, che alle 10.30 interverrà in regione e si può anche seguire questo intervento su internet. Quindi credo che sentire le parole dell'interessato sia un modo, appunto, per chi vuole farsi un'opinione, e poi naturalmente aspettare nei prossimi giorni gli sviluppi dell'inchiesta. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo un articolo che poi continua alle pagine 8 e 9 di Giuseppe Remuzzi, che è un medico oltre che un collaboratore del Corriere della Sera, anzi probabilmente prima di tutto è un medico, e parla del grande tema della scuola. Più benefici che rischi, la scuola può ripartire. Il bilancio degli studi sui casi di riaperture nel mondo. Questo appunto è molto interessante, perché Remuzzi, da medico, da tecnico, cerca di fare un po' il punto. Non ci sarà mai la perfezione, siamo in una situazione in cui tutti dobbiamo scendere a compromessi, però secondo appunto Remuzzi con il buon senso si può riaprire. Con il Corriere della Sera, come ogni lunedì, il supplemento L'Economia. In prima pagina c'è la foto di Giorgio Sant'Ambrogio, che è amministratore delegato del gruppo Vegè, il tema però, che poi trovate dalle pagine 2 in fondo, fin dalla pagina 5, poi con commenti alle pagine 16 e 17, è quello del ruolo crescente che avrà lo Stato in forza anche della pandemia. Pensate soltanto appunto al caso di Autostrade, in cui entrerà CDP, Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato cresce e si allarga, più mercato e investitori per agevolare la ripresa. Il valore delle partecipazioni del Tesoro in un solo anno è salito del 6% a 111 miliardi. Altri ingressi si preparano, ma riuscirà a essere un passaggio transitorio? E da questo supplemento di Economia vi segnalo anche di Maria Silvia Sacchi un approfondimento su quello che sta succedendo con Brooks Brothers. Brooks Brothers, questo colosso, quasi $1 miliardo di fatturato, che ha chiesto il Chapter 11, quello che potremmo è simile al nostro concordato preventivo, perché è in grave difficoltà. È il più antico marchio del lusso americano, anche se da molti anni è di proprietà di Claudio Del Vecchio, figlio maggiore di Leonardo Del Vecchio, da molti anni residente negli Stati Uniti. E c'è una cordata, e parla in questa pagina 11 del supplemento Economia, Alessandro Giglio, che è il fondatore di Giglio Group, una piattaforma di e-commerce molto forte in Cina, e che parla naturalmente della sua principale società, ma spiega anche quali sono i piani per Brooks Brothers. La Repubblica apre su un'intervista che poi trovate di Tonia Mastrobuoni, che poi trovate a pagina 3, a Fabio Panetta della Banca Centrale Europea. Il virgolettato è: riforme e sud, ora la svolta. E torna sul tema del fisco agevolato per il mezzogiorno e spiega anche come si debba presentare questo piano al, che, ripeto, Fabio Panetta è membro del board della Banca Centrale Europea, come si debba presentare questo piano il più rapidamente possibile. Sapete che il piano poi deve essere vagliato dalla Commissione Europea. La prima pagina, la foto della prima pagina è dedicata alla Juventus, si vede la gioia di Cristiano Ronaldo che ha segnato due, questa foto è stata scattata dopo il primo gol alla Sampdoria, ma come abbiamo detto appunto nono scudetto di fila per la Juventus. Con Repubblica ogni lunedì, anche in questo caso un supplemento dedicato all'economia, affari e finanza, la storia di copertina, molto interessante, si parla spessissimo di questi temi, sostanzialmente dedicata ai temi del ruolo delle donne, anche la trasmissione di Maria Latella, ieri c'è stata l'ultima puntata della stagione, Nessuna è perfetta, ma riprenderà poi con il palinsesto dopo, appunto, che riprenderà alla fine di agosto. Il tema è quello delle donne, appunto del ruolo delle donne, di tutte le disuguaglianze ancora nella rappresentanza che le donne hanno nelle aziende, ma anche disparità salariali e di diritti in generale. Le donne di denari. Paola Iadeluca, poi a pagina 2, Wall Street, il Nasdaq, le grandi società di investimento. Nella finanza cresce il peso delle manager in rosa, tra gli esecutivi sono al 20%, nei CDA al 23%. Ora noi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento e sentiremo anche appunto l'aggiornamento sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ancora grazie a tutti gli ascoltatori, perché come ho detto prima, poi non lo dico più, però veramente mi sono resa conto che questi mesi di lockdown e di lavoro solitario un po' qui al Sole 24 Ore mi fanno sentire più fragile, quindi questo benvenuto caloroso mi fa veramente molto piacere. Ma torniamo ai giornali e dal supplemento Affari e Finanza di Repubblica vi segnalo un interessantissimo approfondimento, sono due pagine, pagina 16 e pagina 17, di Daniele Mastrogiacomo sul Venezuela. Perché il Venezuela, paradiso del petrolio, ha finito la benzina. Sapete che il Venezuela, oltre in questo momento ad essere a sua volta colpito dalla pandemia, è in crisi economica, sociale, cause con conseguenze gravissime sulla popolazione, soprattutto sui più fragili. La maggior parte dei bambini sono ormai vicini appunto alla malnutrizione, anzi sono già oltre, eppure è un paese per esempio ricchissimo di petrolio, e Daniele Mastrogiacomo cerca di spiegarci: l'estrazione dal ricco sottosuolo, prima riserva petrolifera al mondo, sono scese al minimo storico, gli impianti sono in stato di abbandono. Negli anni d'oro il settore impiegava 143.000 operai, oggi appena 2.000, e deve importare dall'Iran. La Stampa, l'apertura è un'inchiesta molto interessante. Chi vive in una grande città, ma probabilmente anche in una città più piccola, se ne è accorto. L'effetto del cosiddetto smart working, poi io sempre un po' così mi disturba questa definizione, perché lavorare da casa non è necessariamente smart, che vuol dire intelligente o che appunto ha necessariamente dei vantaggi. Per esempio, appunto, l'inchiesta della Stampa dimostra che l'effetto smart working brucia 250 milioni al mese. In che senso? Perché l'ufficio a casa fa crollare i consumi, pesanti le ricadute su ristoranti, pubblici esercizi, che perdono 250 milioni al mese. I nuovi modelli di vita azzerano anche viaggi d'affari e turismo. Fondi esteri contro il governo, questo è ancora un altro tema, di nuovo in bilico l'accordo su Autostrade, perché sapete che all'interno di Autostrade, oltre all'azionista di maggioranza che fa capo, che è la società che fa capo ai Benetton, c'erano anche altri azionisti, tra cui fondi esteri che non hanno gradito questo questa decisione della estromissione di fatto, comunque del passaggio da azionista di maggioranza, azionista nettamente di minoranza della società che fa capo ai Benetton, e l'ingresso di CDP con modalità che ancora non sono chiarite. E come sapete, l'incertezza in generale è il nemico numero uno di chiunque voglia fare degli investimenti, specie a medio lungo termine. Vi segnalo dalla prima pagina, oltre naturalmente alla notizia della Juventus, e tra l'altro la Stampa anche poi dedica una sorta di piccolo dorso, la Stampa è il quotidiano di Torino per eccellenza, alla vittoria della Juventus. E non solo, è anche controllato dalla famiglia Agnelli, che è anche appunto proprietaria della Juventus, quindi insomma, per ovvie ragioni lo spazio maggiore, oltre che sulla Gazzetta dello Sport, lo trovate sulla Stampa, a questo record del nono scudetto di fila della Juventus. Ma vi segnalo anche l'analisi di Gianni Riotta sulle presidenziali americane. Ieri c'erano due articoli sul Sole 24 Ore che vi ho segnalato, di Riccardo Barlam, che tra l'altro so che ha in preparazione un pezzo che probabilmente sentirete nel GR delle 8, aggiornamento appunto su quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che non solo continua ad avere questa emergenza sanitaria, c'è tra l'altro, sta succedendo di tutto, perché è anche appena passato un uragano in Texas, lasciando i danni che potete immaginare. C'è la questione molto controversa della decisione di Trump di mandare truppe speciali nelle città dove ci sono disordini. Ci sono i disordini del weekend a Seattle, dove è anche morta una persona, e tutto questo nel clima elettorale. E quindi Gianni Riotta racconta, poi trovate tutto a pagina 19, mancano 99 giorni alle elezioni, che saranno il primo martedì di novembre. Trump travolto da virus e crisi, ma Biden rischia, non è comunque, sì, Biden in questo momento è Joe Biden, l'avversario di Trump, il democratico Joe Biden, è in vantaggio nei sondaggi, ma nulla è deciso. Vi dicevo, la Gazzetta dello Sport, il titolo è Noventus, campioni d'Italia, e poi ci sono, fino a pagina 16, ci sono gli approfondimenti su questo successo della Juventus. Il Messaggero, Fontana, sospetti sull'eredità, 27 inchieste sulla Lombardia. Il Messaggero a pagina 2 e 3 appunto analizza tutte queste le inchieste, che alcune non vedono coinvolto direttamente, non vedono come indagato il governatore Attilio Fontana, ma tutto quello che è successo nell'emergenza. Ma vi segnalo dal Messaggero, per fare un po' il riassunto delle pagine che trovate oggi su questa inchiesta, secondo me sono due le questioni che suscitano così le perplessità maggiori da persona che sta cercando di capire qualcosa, come credo moltissimi di noi, non soltanto in Lombardia. C'è la linea temporale proprio, cioè il 19 maggio è la data in cui Fontana, dal suo conto svizzero, cerca di fare il bonifico da 250.000 euro alla Dama. Questo bonifico viene bloccato, e qui il Messaggero spiega perché a volte i bonifici di questo tipo vengono bloccati, perché l'unione fiduciaria ha bloccato il bonifico. Consistenza della somma, cioè era molto alto, 250.000 euro, assenza di una coerente causale, le parti correlate, la qualifica di PEP, persona esposta politicamente, il governatore Fontana, e poi la provvista da un conto svizzero che Fontana ha aperto nel 2015 dopo aver scudato, cioè aver utilizzato la voluntary disclosure, cioè l'aver volontariamente detto: ho un conto alle Bahamas che non è, in questo momento non segue i dettami della legge, approfitto di questo condono e appunto lo scudo fiscale, lo tolgo dalle Bahamas, che è un paradiso fiscale a tutti gli effetti, lo porto in Svizzera, lo sposto in Svizzera. Il tema naturalmente è anche, ha spiegato il governatore Fontana, che questo conto, che vale più di 5 milioni di euro, è frutto di un'eredità di sua madre. E qui è l'altro tema, e da qua anche vi segnalo l'editoriale di Flavia Perina sulla Stampa, lo spettro di un nuovo caso Bossi, perché il tema è che quando appunto ci sono tutti questi soldi in ballo, cioè questi 5 milioni di eredità dalla madre, che di professione aveva fatto la dentista, naturalmente si cercherebbe di capire l'entità di una cifra simile. Questo è un po' appunto la pagina 4 del Messaggero. Fontana, dubbi sull'eredità, i 5 milioni delle Bahamas trasferiti in Svizzera nel 2015. Arriviamo al Fatto Quotidiano, che apre sulla vicenda Fontana. Fontana racconta altre balle, due punti, metà PD e Italia Viva pronti a salvarlo. Questo vedremo, perché appunto in regione oggi alle 10.30 dicevamo l'intervento del governatore Fontana. Il Movimento 5 Stelle ha detto che in Regione Lombardia è all'opposizione, insieme al Partito Democratico, che presenterà una mozione di sfiducia. Il Partito Democratico in Lombardia ha chiesto le dimissioni, così genericamente. Vedremo come evolverà e se ha ragione il Fatto Quotidiano invece su questo retroscena. Devo una risposta a un ascoltatore che dice che ieri ho letto il titolo del Fatto Quotidiano citando questo virgolettato di Rocco Casalino, vittima di ludopatia, parlando del compagno, ex compagno brasiliano che appunto si sarebbe fortemente indebitato facendo trading online, che Casalino ha liquidato come una forma di ludopatia durante il lockdown. E per me, io appunto ho detto, ho stigmatizzato il fatto che si dica vittima di ludopatia, perché quando si hanno 30 anni si è, credo, pienamente responsabili di un'attività che tutti sanno rischiosa come il trading online, specie se non si è un trader di professione. E l'ascoltatore giustamente dice: quello non era l'opinione del Fatto, ma il virgolettato di Casalino. Precisazione dovuta. E comunque sul Fatto Quotidiano oggi su questo non c'è una riga. C'è invece un interessante approfondimento di Nicola Borzi, che tra l'altro una volta lavorava qui al Sole 24 Ore, sull'auto. Il titolo dell'approfondimento, che trovate a pagina 10 del Fatto Quotidiano, è: come sta l'auto? Vendite e immatricolazioni crollate, questo lo sappiamo. Il comparto vale quasi il 5% del PIL italiano, pensate, ma la crisi è iniziata prima del Covid. Francia e Germania si muovono, l'Italia resta ferma agli incentivi. Questo è un tema che avevamo toccato anche citando appunto gli annunci durante Effetto Mondo, che riprenderà anche insieme a Effetto Giorno, dopo naturalmente alla fine del palinsesto estivo, con l'ultimo lunedì di luglio, l'ultimo lunedì di agosto, scusate, ma questo tema di come Germania e Francia hanno varato piani di sostegno al settore, ma diversi da quello italiano, che appunto, come scrive Nicola Borzi, resta fermo agli incentivi. La verità è stato il giornale che tre giorni fa ha fatto questo scoop sull'indebitamento dell'ex compagno, che al momento pensavamo ancora essere compagno di Rocco Casalino. Poi è stato Rocco Casalino stesso, portavoce del premier Giuseppe Conte, a dire che in realtà non stanno più insieme. E La Verità ha fatto lo scoop su questo. Rocco, e oggi ci torna, Rocco e i suoi fardelli, gioco di parole naturalmente con Rocco e i suoi fratelli, il famoso film Rocco e i suoi fratelli. Tutto ciò che non torna nella versione di Casalino è in prima pagina, con quello che in gergo giornalistico si chiama palchettone, cioè un approfondimento subito sotto il titolo, poi il titolo di prima pagina vero e proprio dedicato a Fontana, lo vediamo tra un attimo. Ma il commento a questa vicenda è del direttore, fondatore e direttore della Verità, Maurizio Belpietro, che, strano, ora invocano la privacy. Il titolo appunto principale è su Fontana: se il dono diventa un reato. L'accusa, frode in pubbliche forniture, sarebbe che sono stati consegnati meno camici del previsto, ma sono stati regalati. Il contribuente non ha sborsato un euro, e però basta a scatenare la bufera. E qui torno un attimo sulla cronologia dei fatti, perché vi dicevo il bonifico è del 19 maggio. Il problema è che poi in giugno Fontana, con il bonifico fatto da un conto intestato a Fontana, che poi questo bonifico non è mai andato a buon fine, ma il problema è che qualche giorno dopo, in giugno, Fontana diceva di non sapere nulla di questa vicenda dei camici, ed è oggettivamente un po' strano. Per questo dicevo la linea temporale, se per uno che una decina di giorni prima ha tentato di fare un bonifico proprio per quei camici. Ma appunto vedremo, come ripeto, adesso per ora stiamo ai fatti, alle date, e poi vedremo se a breve avremo delle verità più chiare. Libero, i test hanno avuto successo, vaccino anti-Covid in farmacia a gennaio. Questo è un titolo molto interessante, ci riguarda tutti, che è legato all'intervista all'amministratore delegato della IRBM di Pomezia, che sapete è l'azienda che sta lavorando con l'Università di Oxford a questo vaccino. Costerà 2-3 euro, in un anno se ne produrranno 2 milioni di dosi. L'Italia stia tranquilla. Noi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Agli ascoltatori ce n'è un paio oggi, ce n'erano un paio anche ieri, che dicono: perché non parlate della vicenda delle mascherine mai arrivate, pagate con soldi dei contribuenti, alla Regione Lazio, e quindi il Zingaretti Gate, vogliamo chiamarlo così. Non ne parlo non perché, a parte che qualcuno lo menziona facendo dei paragoni, perché non è la notizia di oggi, as simple as that. Ma sicuramente è successo in passato, una vicenda su cui io spero, e penso tanti come questi ascoltatori, vogliono maggiore chiarezza, perché non è stato chiarito perché quella fornitura di mascherine, ripeto, regolarmente pagate dai contribuenti, non siano mai arrivate. Torniamo alla pagina di Libero per due motivi. Primo, ieri l'ho segnalato, forse qualcuno lo ricorda, c'era un intervento sulla prima pagina di Libero di Antonio Socci contro la legge sull'omofobia. E oggi Vittorio Feltri ringrazia il nostro grande Antonio Socci, così lo definisce, per l'articolo di ieri: gli omofobi hanno il diritto di essere tali, legge liberticida. Ma vi segnalo anche sempre di Vittorio Feltri un altro endorsement, in questo caso a Diego Della Valle, fondatore del gruppo TOZ e presidente del gruppo TOZ, che in questi giorni ha comprato delle pagine di pubblicità sui giornali per invitare tutti ad andare in vacanza in Italia. E quindi Vittorio Feltri appunto sottolinea questo impegno, e dice: l'impegno di Diego Della Valle per rilanciare il turismo per l'Italia, dice Vittorio Feltri, Della Valle fa più di Conte. L'intervento sull'omofobia poi continua invece a pagina 13. Il giornale, la verità su Fontana, l'avvocato del presidente indagato per un regalo alla regione. E anche qui la fotonotizia è per lo scudetto della Juventus, e anche qui un approfondimento su questa iniziativa di Diego Della Valle. In questo caso parla al presidente dell'ente del turismo e dice: ha ragione Della Valle, le vacanze si fanno in Italia, perché lo ricordiamo, volendo i confini ora sono aperti, si potrebbe anche scegliere di andare all'estero, ma appunto il consiglio è quello di restare in Italia per sostenere il comparto del turismo, che vale circa il 2% del nostro PIL e che naturalmente è in grandissima difficoltà. Ma vi segnalo un intervento di Stefano Zecchi, ieri mi hanno colpito, ne ho sentite alcune, le parole di Papa Francesco nell'intervento della domenica, che ha invocato una sorta di patto generazionale, invitando i giovani ad andare a trovare i loro nonni, o se non hanno i nonni a mostrare in qualsiasi modo solidarietà alle generazioni più anziane, diciamo gli over 70, gli over 75, che naturalmente, oltre ad aver pagato per la particolare gravità della pandemia nella generazione appunto degli over 70, oltre ad aver pagato quindi un tributo in termini di vite, hanno comunque sofferto probabilmente più di tante altre persone il lockdown, ma anche questa fase, perché per loro il rischio comunque di tornare a una normalità resta molto più alto che per altre persone, e quindi molti scelgono comunque magari di restare in casa, per non parlare naturalmente di tutta la gestione delle residenze per anziani, le cosiddette RSA, non solo in Lombardia, in tante altre regioni e non solo in Italia. Cioè lì ci sono state appunto delle mosse delle varie istituzioni che hanno aggravato la situazione. Andiamo alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo alla pagina 5 l'approfondimento sul cosiddetto popolo del 110%, cioè il super bonus per le ristrutturazioni, tutte le indicazioni pratiche per capire chi può accedere e chi no. Invece come vi ho anticipato, tutta la mappa dei cantieri, vacanze italiane, i cantieri frenano il grande esodo. Questo lo trovate a pagina 7. E poi l'approfondimento sempre come ogni lunedì ci sono due pagine dedicate alla casa sul Sole 24 Ore. Qui il titolo principale è il cambio di caldaia che porta risparmi del 20% in bolletta, l'efficienza energetica. Il Corriere della Sera, il lunedì è la volta del data room di Milena Gabanelli. Questa settimana, che poi naturalmente ha questa coda, diciamo, con Enrico Mentana nel telegiornale del lunedì, io seguo questo con attenzione, a volte semplicemente mi stupisco che Milena Gabanelli, che sicuramente è molto famosa per i suoi approfondimenti, però insomma cambiare argomento ogni settimana sarebbe forse, almeno per me, come diciamo lettrice del suo data room sul Corriere della Sera e poi ascoltatrice dei suoi interventi in televisione, forse alcuni argomenti sono talmente complessi che meriterebbero più di una puntata. Ma detto questo, questa settimana fondi Unione Europea i 6 nodi che bloccano il paese. Il decreto semplificazioni semplifica, ma non abbastanza. La burocrazia va cambiata e ora ci sono i soldi dell'Europa per fare le riforme e tagliare finalmente gli enti inutili. Naturalmente ancora approfondimenti, c'è Luigi Ferrarella alla pagina 7 del Corriere della Sera sulla questione Fontana, la scoperta dei magistrati, la donazione di camici mai accettata dalla regione, nessun atto ha mai registrato la trasformazione del contratto. Massimo Gaggi firma questo articolo. In realtà Massimo Gaggi riprende un articolo scritto da Maureen Dowd, che è un editorialista del New York Times, e ne fa un utile riassunto, però insomma firmarlo è semplicemente che come spesso accade a tutti noi che guardiamo i giornali stranieri, ha guardato il New York Times, ha trovato questo articolo molto interessante e ce lo racconta, ed è un articolo tutto su Elon Musk e sua moglie, e quindi la pagina 17 del Corriere della Sera, il mondo di Mr. e Mrs. Musk. Elon Musk è un personaggio interessantissimo, anche divertente. Ricorderete forse quando aveva destato grande scalpore il fatto che durante una conference call con gli analisti, che sono quegli incontri telefonici anche prima del lockdown che gli amministratori delegati delle aziende hanno con appunto gli analisti finanziari subito dopo la presentazione dei risultati trimestrali o semestrali o annuali, e lui aveva, siccome gli era stato chiesto ma lei si sente bene insomma o qualcosa del genere, lui aveva risposto no, mi sono appena fatto una canna, e vi lascio immaginare, ricorderete probabilmente le reazioni. Ma solo per dire una delle eccentricità di Elon Musk, che però è il fondatore di Tesla, oltre ad aver creato tantissimi altri progetti, ma Tesla adesso la settimana scorsa per il terzo trimestre consecutivo ha stabilito un utile record. E quindi insomma è anche diventato un imprenditore non soltanto con delle grandi idee, che naturalmente è l'auto elettrica, ma anche adesso profittevoli. C'è per esempio questa curiosità: 120 ore, la settimana lavorativa di Musk prima del rilascio della Tesla modello 3, incluso 24 ore nel giorno del suo compleanno. E poi ci sono le questioni personali. Musk ha avuto 7 figli, uno è morto e quindi ne ha in questo momento 6. Uno l'ha avuto da poco e gli ha dato un nome molto strano, XAEA-12, un misto di suggestioni tecnologiche, l'omaggio a un'aerospia della CIA di rara bellezza estetica, e insomma tante altre curiosità. Quando sono Elon Musk ha 49 anni, è sicuramente un genio, se di genio è il caso di parlare, lui ne è sicuramente un esempio, e come tutti i geni, insomma, genio e sregolatezza. Molto interessante anche l'intervista di Candida Morvillo a Mahmood, il vincitore di Sanremo di 2 anni fa, cantante, che ha girato un video al Museo Egizio, e anche qui sono fioccate polemiche. È successo pochi giorni prima invece del servizio fotografico che Chiara Ferragni ha fatto agli Uffizi per Vogue Hong Kong, anche lì destando parecchie polemiche. In ogni caso, Mahmood è le pop star al museo. Ci vado spesso, cerco le mie radici. Il cantante, dopo il video all'Egizio di Torino, a 8 anni visitai quello del Cairo con mio padre. E sotto questa intervista c'è anche in questo caso una citazione di questa iniziativa di Diego Della Valle, che ha invitato con pagine di pubblicità sui giornali a restare in Italia, e effettivamente finora resta in Italia il 93% dei vacanzieri. Crolla l'afflusso degli stranieri, meno 80%. Il presidente del gruppo Todd: sosteniamo il nostro bellissimo paese. E poi concludo, perché ormai mancano pochi secondi alla fine di questo primo giorno di rassegna stampa, con l'articolo di Paolo Mereghetti, che è uno dei critici cinematografici del Corriere, e ricorda l'addio, l'avete sentito anche nel GR, a Olivia de Havilland. Aveva 104 anni, era l'ultima sopravvissuta delle grandi star del film Via col vento, vinse 2 Oscar, non per Via col vento, ed era sorella dell'attrice Joan Fontaine. Infatti ieri, insomma, molti su Facebook, che hanno anche avuto la fortuna di incontrarla e intervistarla, dicevano si riunirà con la sorella Joan Fontaine, che appunto è già scomparsa. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricelle, regia. Appuntamento a domani, più o meno alla stessa ora, dopo il GR delle 7. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.